E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Anche per i cinesi, la crescita economica ha finito per comportare una crescita di peso. E così il paese che dai tempi della rivoluzione è abituato a combattere la fame, oggi si trova a combattere contro l'obesità. I simboli del benessere non sono più gli elettrodomestici, ma l'obesità e il diabete. In Cina, un paese dove fino a 20 anni fa si moriva ancora di fame, circa il 30% degli adulti sono sovrappeso o obesi. Nel 2004 questa percentuale era appena il 25%. Oggi 92 milioni di cinesi soffrono i sintomi del diabete di tipo 2, quello causato da prolungate diete ipercaloriche e dalla vita sedentaria. A detta dell'International Diabetes Federation di Bruxelles, se il ritmo di crescita del benessere continua, entro il 2030 mezzo miliardo di cinesi saranno diabetici. La causa principale è la dieta occidentale, più carne e cibi processati e naturalmente meno attività fisica. Con queste statistiche, la Cina è destinata a diventare la mecca dell'industria dimagrante. L'americana Weight Watchers ha già creato una joint venture con la francese Danone, il più grande produttore di yogurt al mondo, per far perdere peso agli obesi. Il primo centro ha aperto a Shanghai nel 2008, ma già altri due si sono aggiunti. Anche l'italiana Technogym ha adocchiato il mercato cinese, dove le palestre stanno sorgendo come funghi dopo una notte di pioggia. Ne fornisce macchinari a circa 400 e a 210 alberghi a 5 stelle. Nel 2010 si pensa che le vendite saliranno del 30%, fino a 18 milioni di dollari. Dieta e ginnastica si globalizzano dunque sulle ali del benessere all'occidentale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Loretta Napoloni, Dieta occidentale e anche i cinesi diventano obesi, dal venerdì di Repubblica del 25 giugno. Come ogni estate, assieme alle vacanze arrivano le truffe, ma ora le associazioni dei consumatori corrono ai ripari con un decalogo anti-imbroglio. Quest'anno si va in vacanza con alcune garanzie in più per i turisti, date da due documenti freschi di inchiostro firmati dalle associazioni ASTOI, cioè i tour operator, e ASSOTRAVEL, cioè Confindustria, da una parte, e da Federconsumatori e Movimento Consumatori dall'altra. Uno dei documenti si chiama Decalogo del turista garantito e ha visto la luce assieme a un protocollo di conciliazione che impegna le compagnie del settore a dirimere in modo più facile e svelto eventuali controversie fra operatori e clienti. Il decalogo si rivolge al cliente per dargli consigli e contiene indicazioni semplici che però possono risultare utilissime durante la vacanza e soprattutto dopo, se qualcosa è andato storto. Si può leggere per esteso nei siti delle associazioni citate. Innanzitutto sarebbe bene non limitarsi a portare un catalogo in agenzia e dire «voglio questa vacanza». Bisogna invece parlare con l'operatore e spiegargli che cosa si desidera, in modo da trovare la vacanza più congeniale e mettersi al riparo da cattive sorprese. Prima ancora viene suggerito di scegliere operatori di mercato che abbiano reputazione e di informarsi bene sulle polizze assicurative con cui questi si coprono, riguardo alle condizioni di annullamento, ma non solo. Alcune compagnie hanno regole lasche, altre sono piene di clausole capestro. Bisogna stare particolarmente attenti, leggendo il contratto, ai servizi inclusi o esclusi dalla quota. Se poi in loco qualcosa non va, si deve informare subito un rappresentante locale del tour operator. E se non si riesce a risolvere il problema, documentare il disservizio con foto e testimonianze. E in ogni caso, conservare fino al ritorno ricevute, biglietti, eccetera, anche se al momento possono sembrare inutili. Al ritorno, attenzione alle procedure per i reclami, raccomandata AR all'organizzatore o al venditore entro 10 giorni dal rientro, e per appellarsi al protocollo di conciliazione si può chiedere l'assistenza delle associazioni di consumatori firmatarie. Attenzione all'acquisto di pacchetti o singoli servizi via internet su siti di operatori stranieri. Si spende poco, ma bisogna incrociare le dita e fidarsi, perché in caso di controversia potreste trovarvi a dover intentare cause legali internazionali, con forti spese e scarsi risultati, oppure rassegnarvi. Chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Valutate se non è il caso di spendere un po' di più, ma avere poi qualcuno presso cui protestare e far valere i propri diritti. Un altro vademecum interessante è stato redatto dall'Adiconsum e riguarda i rischi accresciuti di furti di identità elettronica e di frodi sul conto corrente bancario durante le vacanze, legati agli accessi al web forniti da alberghi e da internet caffè. Molti gestori di questi servizi, per risparmiare, non utilizzano sistemi di sicurezza adeguati e spesso i computer messi a disposizione sono infettati con programmi che rubano i dati d'accesso e li inviano a criminali informatici. Adiconsum dà una serie di consigli, ad esempio creare un profilo utente con diritti limitati da utilizzare per i servizi online quando si è in viaggio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Grassia, Ferie, decalogo anti-imbroglio, dalla Stampa del 12 luglio. Ad Ercolano ci sono 4.000 reperti archeologici che nessuno può vedere, dato che il museo, costruito 35 anni fa, non è mai stato aperto. A Ercolano, il Museo Antiquarium è una struttura fantasma. Nonostante sia stato costruito 35 anni fa e inaugurato due volte, nel 78 e nel 93, le vetrine ancora imballate, non è mai stato aperto. I 4.000 reperti archeologici che dovrebbe ospitare giacciono da anni blindati nel caveau di una banca o depositati in magazzini, alcuni dei quali infiltrati dalle piogge. La culla di legno carbonizzata, la statua di bronzo di Bacco, le sculture della Casa dei Cervi, gli ori riemersi fra gli scheletri e poi la mobilia annerita dai 500 gradi della nube ardente vulcanica sono solo alcune delle perle del museo che non c'è, negate alla curiosità dei 300.000 visitatori che si recano ogni anno a Ercolano. Anche le terme, la parte più suggestiva degli scavi, sono chiuse al pubblico. I visitatori si trovano la porta d'ingresso chiusa a chiave e nessun cartello a spiegare il perché. Stessa sorte per il Teatro Antico. Il più famoso, essendo il primo scavo fatto nel Settecento, è inaccessibile al pubblico. I 300 calchi dei corpi carbonizzati dall'eruzione del 79 d.C., rinvenuti al livello della spiaggia, sotto una coltre di 19 metri di fango vulcanico, ancora non sono stati esposti nel luogo di ritrovamento, nonostante i lavori per il loro allestimento siano iniziati 12 anni fa. Se Ercolano piange, Pompei non ride. Un esempio per tutti. A Pompei, il sito dei Fuggiaschi, un gioiello degli ultimi scavi della metà degli anni 90 finanziato dai fondi FIO, è incredibilmente sbarrato da una fune sgualcita. Anche qui nessun cartello offre una qualsiasi spiegazione. Si trovano nella regione prima, insula 22esima, del sito archeologico, a pochi metri dall'orto dei Fuggiaschi. Ma i visitatori non possono accedere a questa area rialzata, di interesse eccezionale. Si possono vedere i corpi di persone sopravvissute alla prima eruzione, ma uccise dai fanghi vulcanici mentre tentavano di fuggire sopra un metro di pomici, perché l'ingresso è loro impedito da una corda. La rampa di scale è priva del primo gradino, la teca di vetro antiproiettile di protezione ai calchi è impolverata da chissà quanto tempo. Avete ascoltato la lettura di un estratto dall'articolo di Alberto Custodero, Il Museo Fantasma di Ercolano, inaugurato due volte e mai aperto al pubblico, da Repubblica del 12 luglio. Una ricerca americana rivela che il botulino, oltre a bloccare i muscoli, influirebbe anche sulla capacità di provare emozioni. Tutti sanno che uno degli effetti collaterali del Botox è la limitazione dell'espressività del volto. Ora una ricerca statunitense rivela un altro possibile effetto, decisamente più grave, l'incapacità di provare pienamente le emozioni. L'iniezione di Botox è una pratica molto diffusa per combattere le rughe del viso ed è costituita da una proteina estremamente tossica, il botulino, che paralizza temporaneamente i muscoli rilassati. Questo significa uno stop ai segni del tempo, ma anche al movimento stesso dei muscoli. E tutto ciò, cominciano a pensare i ricercatori, potrebbe avere altre conseguenze. Con il Botox, una persona reagirà normalmente a un evento emozionante, per esempio la scena triste di un film, ma il movimento dei suoi muscoli facciali sarà limitato, spiega Joshua Davis, uno psicologo del Barnard College di New York. Di conseguenza, saranno limitati anche gli impulsi inviati alla regione del cervello che controlla le emozioni. Per verificare la loro ipotesi, Davis e la sua collega Ann Sengas hanno mostrato dei video a forte impatto emotivo ad alcuni volontari, prima e dopo avergli iniettato del Botox e del Restylane, sostanza usata per riempire le labbra che non blocca il movimento dei muscoli, come mezzo di controllo. Rispetto agli altri, i volontari con il Botox hanno mostrato un significativo calo generale nell'intensità dell'esperienza emotiva. Hanno scritto i ricercatori in un articolo pubblicato su Emotion. I risultati confermerebbero dunque l'ipotesi secondo cui le espressioni facciali mandano al cervello impulsi che possono influenzare i sentimenti. Il semplice atto di sorridere, per esempio, può aiutare a sentirsi felici. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefania Mascetti, L'altra faccia del Botox, da Vanity Fair del 14 luglio.